persona che faceva un sacco di sacrifici per mandare avanti la baracca, però quando non c'è più il riscontro familiare non c'è niente. Quando uno si fa il culo per mandare avanti un'azienda, poi chi dovrebbe prendere le redini non ha nessuna capacità, nessuna voglia di fare, caro Pinangelo. La cosa muore lì, capito? La cosa muore lì. Muore lì perché è così. I duri, i brasiliani, i rinai, i tiricosi, balla e polvere, alla fine è andato tutto male. Ma comunque l'ho conosciuto bene, e l'ho conosciuto anche quando poi si è ammalato. E quindi niente. Va bene. Vediamo un po' se è rientrato Gigi, attento Vulcano, Concesti, Mauro. E ascolta, siccome c'è quella roba da portare da studio, me la sto scaricando, me la sto sistemando dopo rientro. Va bene Mauro, siamo sui 9, avanti Pinà. Come praticamente ha messo a testa Antonello. E poi da quando mi stai parlando del figlio, io ti posso dire quel che mi ricordo, no. Lui non è che salva a testa, chi faceva tutto era Salvatore. Sì, sì, questo me lo ricordo perfettamente anch'io. Che il signor Salvatore faceva le cose principali, diciamo. Però è chiaro che io sto sempre lavorando qua, è chiaro che non è che era Buccialaraggio e due. Sua, vero? E ci ha fatto dicendo, io ero, non ero neanche sposato. No, ero già sposato, mi trovo qua quasi 200. Forse nel 90 è morto, 90, 92, non so, una cosa del genere. Ma non è che si curava molto lui, questo me lo ricordo. Non era amante delle medicine, non era amante di niente, e già pazza, e quindi, sai, oggi come oggi bisogna stare molto attenti, perché un raffreddore non curato, o una bronchite non curata, sono dolori, può andare in broncopolmonite, e con l'andare del tempo puoi avere dei grossi problemi, perciò è così. Questo ti posso dire che erano bei tempi per me. Io ero un pazzo scatenato, un pazzo furioso, non badavo a niente. 600 ne avevo, 200 ne spendevo, non me ne fregava niente. Nonostante fossi sposato, avevo già la casa, non mi mancavano molte cose. Forse rispetto a qualche di un altro stavo molto bene. Lavoravo con i miei suoceri lì nel negozio, che ti ricordi, quello di via Sproni, e adesso mi è rimasto solo quello di via Cavour, e quindi insomma non me la fottia niente, non me ne fregava niente, la bella vita si faceva. Oggi diciamo che non posso incriminare niente, di denaro se ne è sperperato tanto, ma alla fin fine l'obiettivo era quello di avere la casa, di avere un posto di lavoro, grazie a Dio in casa ne ho due, e posto di lavoro ce l'ho, perciò non me la fotti più niente. Libero una domenica mattina oggi. farmi due chiacchiere di persona. Cioè, a più tardi se coincido, altrimenti passa un buon fine domenica, ok? Alessandro. Ecco qua, allora veniamo un attimo. sarebbe dove sono figurate le lettere, A, B, C, D e così via. E poi la mano la trasmetta. Allora, è un po' diverso dal mio, però ti dico già una cosa. Dove c'hai inductor, selector, no? Che parte dalla A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ok? È uguale. Positivo. Perfetto, fino a qua ci siamo. Lascia stare dove c'è scritto gli altri due, che c'hai trasmitter, meeting e antenna meeting, quello è per la cordatura, e ci siamo. Rimaniamo sull'inductor. Allora, intanto una volta che tu hai il selettore dell'inductor, sulla non significa che sei sulla banda che tu stai cercando, perché inductor in inglese vuol dire seleziona l'induttore di banda, quindi inductor select. Quello lì tu devi mettere prima di tutto dove c'hai antenna selector, non antenna meeting, antenna selector, quindi tutta a sinistra vicino allo strumento. C'hai la posizione in tuned coax, quindi tuned che è la parte della cordatura dove tu puoi usare le due manopole, quindi gli induttori, come cosiddetto il meeting e il trasmettitore dell'antenna, no? I due pomini che c'è per accordare, quello che va da 0 fino a 10. Quindi la parte tune fa viaggiare i due pomelli dell'accordatore, la parte dove tu c'è scritto bypass, quella è diretta. Non ho capito. No, perché spostando la manopola indubito, dove il manopolo che sono le lettere, provi a cambiare, non ti accorgi nessuna differenza. E lì ci siamo, lì viene il bello. Lì viene il bello, perché dove tu ci hai scritto inductor selector, e quindi devi andare a cercartela tu, la banda, dove corrispondono quei numeri. Ok? Io adesso cerco il mio manuale, io me li ho cercate. Sappi che però gli 11 metri nell'MFG non esistono. Capito? L'MFG è una casa costruttrice di accordatori professionali per bande decametriche. Quindi anziché trovare gli 11 metri dalla A alla L facendo tutto il giro, troverai i 10 metri, che adesso non ricordo se sono la E o la F. La E o la F, ma non mi ricordo, devo andare a vedere il mio manuale. Comunque ti puoi già spostare sia dalla A, dalla B, dalla C e dalla D, perché quelli non sono 10 metri, quelli sono 20, 40, 80 e Van der Waart. Quindi scendi dalla E alla F, E, F, G, e guarda se trovi 10 metri, praticamente devi mettere in tune, non in bypass, il pulsante dove c'è antenna selector in tune, quindi ti puoi scegliere o ingresso 1 o ingresso 2, ok? Quindi ti scegli l'ingresso dell'antenna che hai 1 o 2, del tune c'è scritto, non bypass, tune, ti posizioni lì, ti vai col selettore inductor E, F o G e vai a vedere se il meeting sia del trasmettitore che dell'antenna ti danno un riscontro. Ti devi cercare la banda operativa del selettore, altrimenti non riuscirai mai a farlo funzionare quell'MFG. Sono accorto che ce n'è pazzia, vabbè, bisogna starci un po'. io perché sto innescando. Sto innescando perché ti manca il piano di massa. Sto innescando perché ti manca il piano di massa. Tutto lì. Non sto innescando perché hai problemi o qualcosa del genere. Stai innescando perché non hai il piano di massa sul mic. No, ma sull'apparato ce l'ho. Magari non ho capito niente. Cosa c'è? Che piano di massa c'è? Ho portato il capo, adesso qua nel palazzo, all'ingresso diciamo del palazzo dove c'è il contatore. Fuori hanno messo il palo con la freccia che arriva ai contatori, io da lì sono partito con il cavo rimasto sino qua dove è l'apparato. Quindi sull'apparato c'hai attaccato il giallo verde dietro dove c'è la farfalla. Dove c'è la farfalla, l'apparato, c'ho un cavo da 6 mm. Se tu te ne rendi subito conto se non è sufficiente, guarda, quando tu metti la mano sopra il microfono non lo fa più, vuol dire che manca la massa tra il microfono e la radio. Boh, è un casotto, cazzo, vabbè, devo fare alcune prove, dai, provo a fare alcune prove, diciamo, con testa, e vedrò un pochettino. Vedrà un po', vado. Ma ce l'hai davanti la cordatura o ce l'hai già qua? No, non ce l'ho qua, okay. Ce l'ha già qua, l'ho lasciato già qua, adesso vedo un po' stasera, questi giorni se riesco a passare vedo un po'. Ma se ce l'ha già un po' non riuscirai mai a capire come ha fatto a funzionare già un po'. Ci vuole una radio a sintonia continua per farlo funzionare, non ci vuole un baracchino. L'induttore non funziona come in 11 metri, quindi ci vuole una radio professionale per far andare quello strumento. Infatti io quello strumento ce l'ho non ce l'ho qua nella 27, non so da niente. Per la 27 ho un SVR 200 della Kenwood che mi misura le stazionarie a doppia scala, non l'abbiamo incrociato, non serve a niente, quindi come fa a farlo funzionare già un po'? Devi attaccarlo lì e trovarti le bande una per una, quindi vai 10 metri, te ne vai a 28 e 300 e provi a vedere se si muove l'induttore, se accorda. Poi andrai in 20 metri a 14 e 200 e proverai anche lì, sino a trovare dei disegni, quindi la A sono i 20 metri, la B sono i 10 metri, e la C sono gli 80 metri e così via. Vai a cercarti tutte le bande. Una volta che le hai cercate, che sai che la C, la A, la G, la B, quello che è i 10 metri, quindi i 28, allora metti in 27 e vai ad accordare, perché accorda anche in 11 metri, non solo in 10. L'unica cosa che fa quell'accordatore è quello lì. Accorda anche in 6 metri, in 50 mega, quindi quello che c'ho io, quello che c'è tu, mi pare che faccia 0,30 o 0,50. Però provalo tu, non te lo fai provare già un po' col baracchino metto gli piedi. Adesso non sta innescando. Adesso non sta innescando. Non so, mi sono vince. Bisogna regolarla con la radio e lasciarla stare così, Sandro. Sei trappando, sei cupo, sei... quella radio deve funzionare bene. Bene, bene, bene, perché ti garantisco che funziona bene. Bisogna fare la regolazione e lasciarla stare. Poi c'è da mettere un gavettino di quelli fini, fini, fini, tipo cavo di telefono, possibilmente nero, all'interno della treccia che va dal microfono alla radio. Il connettore che arriva, che parte dal microfono e che arriva alla radio, deve fare un pezzo di filo da 50 cm che va a toccare da un connettore all'altro. E tu vedrai che non hai problemi né di fischi né di fiaschi. Confermo, itinerativi, buongiorno. Anche qua, ciao, salve, noi siamo quelli musti, ma c'è ancora la bici. Anche qua è negativo, però la radio è troppo alta, come hai detto tu, la onda troppo alta di modulazione. E ci porta molto, molto QRA dietro. Dimmi Mauro, ti ho chiamato mille volte e non mi rispondi, dimmi. No, niente, non è io stavo sistemando quella roba, l'ho sistemata, adesso con sta volendo da casa. Ascoltami, questo Galax c'è pur meco, come radio? Dipende da chi la devi comprare. No, ve lo stava dicendo Luigi poco fa, che c'è uno di adesso non mi ricordo del paese, e mi stava dicendo che la stava vendendo. Provare prima di comprare, Mauro, ti dico solo quello, provare prima di comprare. Se la prendo ci scendiamo assieme e ci prende, ci controlla, se è a posto la prendo. Se mi dici. Se dobbiamo andare da quello che so io, cioè se Gigi, vabbè, bisogna parlare con Gigi, non so cosa dire qua, perché se prometto Gigi che è uno dei paesi, allora non ci bisogna neanche di andare. Quando scende lui te la porta, puoi pagare e dirle grazie, se è quello che dico io. Se non è quello che dico io, bisogna provare la radio. Mi stava dicendo lui che l'ha detto lui, però lui mi ha detto non la prendo, dice se vuoi metto altre torna a parlare a me, dice non la prendo. Ma detto guarda che bella, dopo dice che di la Claudio, dice dopo dice lui che è buona guarda. Claudio non ha problemi a dire la pura verità, è una bellissima radio, interessante, è una stazione base molto completa. L'abbinamento microfonico non abbiamo problemi a farglielo perché ne abbiamo da vendere, da aprire un negozio di microfono a tavolo, perciò però ti ripeto, ribadisco, io ti posso offrire adesso di comprarla se è quello che dico io, quindi devo sentire Luigi. Se quello che dico io ti posso offrire di comprarla perché la radio l'ho data io, praticamente abbiamo fatto un business ed è quella che dico io. Se non è quella che dico io, allora bisogna prima provarla e poi pagarla. Io capisco. E va bene, adesso va bene, parliamo con lui. No, perché se non me lo ricordo del paese, me l'ha detto, però non me lo ricordo. Lui mi ha detto, dili questo tipo di radio. Mi ha detto, per me è buono, è 2.20, dice, va bene. Sì, non ti preoccupare, va benissimo. Cos'hai detto, Luca? Ah, sì, Mauro, sono basso basso qua. Macchina, sono arrivato a casa, adesso chiudo qua e accendo a casa. La carruccia arrivi oggi. Sei arrivato a casa sua, qua è 9.20. Qua è 9.20, no? Va benissimo. E vabbè, tu sei mi coperto un po', no? Per i punti. Allora, Mauro, attacca a casa e ne parliamo dopo. E se non usiamo i telefoni, che è meglio usare i telefoni per stare a parlare di queste cose in radio. Ok. Mauro, ho sentito un attimino Sandro, o Salvio, non lo so. Salvio, l'hai sentito tu a Sandro, ha migliorato? Non ha bussato la porta, Salvio. Sandro, ripeti, fammi sentire la regolazione, lasciala così, non la toccare più. Quella è la regolazione che va bene per quella radio. Ok. Allora, sono esattamente adesso... Niente di scivolato. Che cosa? L'importante o di picco di modulazione, quanto ti dà in picco di modulazione sul parlato, quanti watt ti sta dando e quanti watt hai in portante fissa? Allora, portante fissa mi dà 8 watt, modulazione sale, col fischio sale 40, modulazione normale sale 15. Oh, puoi portare anche a 10 watt di portante fissa? Portala 10 watt di portante fissa con la radio e poi lasciala così perché hai picchi positivi, la modulazione è meno masticata, è molto bella e va bene così. Tu immaginati qui da 8 watt sale a 40, tu immaginati quando lo metti a 40 o a 30 di portante fissa cosa succede con la radio, te lo riporta tutti indietro i watt, capito? Quindi se tu la metti a 10 watt di portante in AM quella è subito indietro. E quindi non serve a niente sfruttare in quel modo lì la radio. Quindi sfruttare l'LC, soprattutto il microcompressore che ha all'interno dell'LC. Non serve assolutamente a niente. Sfrutti solo la radio e comprimi la modulazione e non va bene. Quindi non è questo il mio microfono, è che tu le stai dando troppo ingresso. Quindi lo lasci a 10 watt di portata fissa e smodula tranquillamente a 40 watt come dalla casa. E problemi non ne hai. Il segnale non cambia nel modo più assoluto, è stabile a 9 più 20, perlomeno da qua, solo che hai i picchi positivi, quindi a 9,10 a 9,20. In quale maniera arrivi 9,20 con picchi negativi a 9,10? Quindi vedi bene che il risultato non cambia. Ok, vabbè, dai, lasciamo così. No, me ne accorgo anche su, siccome c'ho lo strumento Wattmetro e Rosmetro, c'ho anche lo strumento incorporato dove c'è la modulazione, capito? Vado, in effetti adesso mi sta dando, mi sta superando il 100%. Quindi dal modulometro, che è un buonissimo strumento di regolazione soprattutto per i microfoni, si accorge che la percentuale di modulazione adesso è al 100%, mentre prima sicuramente non era al 100%. Essendo masticata, essendo quasi diciamo distorta, la modulazione tende a non camminare col modulometro, quindi rimane lì traballante e non ti dà la percentuale giusta. Se adesso ti sta dando il 100%, è la validità che ti sto dicendo io, che quindi la regolazione di quella radio è perfetta. Positivo. In effetti adesso addirittura supera il 100% il lago del modulometro. Prima arrivava sui 60-70, però il lago era vibrava. Sono degli accorgimenti che piano piano uno va a valutare, dai. Ma figurati, nessun problema. Io su quella radio so come manovrare, so come muovere, quindi quella conosco molto bene perché il GX2 l'ho avuto anche io e mi incazzavo perché non dava più di 40 watt. Alla fine l'ho passato al Kenwood, che è una radio diversa da quella, è un 3 conversioni, quella è un 2 conversioni, e quindi c'è la possibilità di aumentare l'LC dall'interno. Lì si può aumentare l'LC dall'interno, ma i watt rimangono sempre quelli. Siccome come radio ne hai abbastanza, perciò va più che bene. Devi solo attenerti alle regole di quella radio, che sono quelle di non darle mai la potenza superiore ai 20 watt di portante fissa. Quando tu le dai 10 watt di portante fissa, lei lavora nei 40 watt, quindi all'interno dei 40 watt. La voce non distorce, i picchi di modulazione sono stabili come da manuale, capito? Senza che ci siano condanne da parte di nessuno. molto bene, interessante. Diciamo che adesso, essendo il possesso dell'attestato, io potrei anche, diciamo, frequentare quelle bande lì, però non posso a tutte le leggi perché non ho una sigla. Sono riconosciuto, però non ho una sigla, tutto ricordo. Sì, non fermo la sigla, te la do io scelgo una bella. Ehi, vabbè, diciamo... tu lo sai, no? Io sono entrato nella 27 perché era un mio vecchio ricordo, una mia vecchia passione, e quindi adesso ultimamente sono entrato nella 27 e tu sai perché. Giusto per dialogare un attimino con i vecchi amici, giusto per quella mezz'oretta, un'oretta per sbagliare un po' la testa e per passarci quei 10 minuti, mezz'oretta, tutto lì. Buon pranzo, buon fine domenica per chi è in ascolto. Ciao a tutti, a dopo.